avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Vi parlo questa mattina vivo per un vero miracolo, avendo subito un doppio tamponamento in taxi. Ho la schiena gravemente lesionata, quindi la mia voce è abbassata di mezzo tono anche oggi. Non preoccupatevi per la mia salute, ma seguite attentamente quello che è l'argomento del giorno. Questa mattina parlerò di Facebook. Vuol dire ancora Facebook? Beh, vale la pena. Primo perché abbiamo in questo una sorta di glorioso primato. Ho aperto davanti a me il monitor e vedo che era il 21 aprile 2008, quando facemmo la notte della passione. Nel 2008 ancora non se ne parlava come se ne parla oggi. Ancora nella metropolitana non sentivi tutti che dicevano: ah, mi ha cancellato la Facebook. Ah, ho visto su Facebook che ieri sera è uscito. Hai visto, siamo diventati amici. Mi sono tolto da quell'amico di Facebook. Ormai è l'argomento principe quando si vuole indicare una relazione immediata. Non c'è più mi ha telefonato, non c'è più mi ha mandato un sms, ma ho visto su Facebook. È diventato un luogo condiviso intermedio frequentato da tantissime persone. Allora nel 2008, quando facemmo la notte della passione, lanciammo il bando dei 1000 prodi della passione, vi ricordate? 1000 persone, sembrava chissà quanto. Oggi ne vedo, ne ho 7000 sul profilo pubblico e altre 5000 su quello privato, ma semplicemente perché non vogliamo incrementare più di tanto, è inutile avere tante persone. È uno zoccolo duro attivo, sono persone che seguono la trasmissione della radio, poi ne parlano, poi ritornano sugli argomenti, poi suggeriscono argomenti, poi seguono, si intrecciano, lanciano anatemi, si cancellano, ritornano, vengono segati, riappaiono. Insomma, è diventata una grande comunità. Io sento un po' come il mio network privato. Non è soltanto la radio, la propaggine della radio. Già la sera prima si sa quello che si farà la radio il giorno dopo. Già mentre parlo in questo momento sto vedendo la gente che comincia a fibrillare, a dare segnali di esistenza, di vivere e di esserci. Facebook, rispetto alla nostra inedia nazionale nel rapportarsi attraverso protesi emozionali, ad usare la rete con tranquillità, con serenità, in attesa che venga rivista quella terrificante legge per cui collegarsi a una rete internet wireless significa dover lasciare una serie di tracce testimoniali, perché chissà cosa si possa fare nella rete che non si può fare al telefono, che non si può fare di persona, che non si può fare nei garage e nei salottini di casa, come ci sta insegnando la cronaca di questi giorni. Gli italiani hanno raggiunto un primato. Nel mondo siamo i primi utenti di Facebook, i primi per passione, i primi per ore di applicazione. 6 ore e 27 minuti al mese sarebbe di media un utente italiano su Facebook. Immaginate che negli Stati Uniti ci stanno 4 ore e 12 minuti, quindi siamo 2 ore più degli americani, che hanno la rete ovunque, che basta che escono e c'è la rete, accendono un telefono, accendono un palmare, accendono l'iPad e immediatamente sono in rete. Dobbiamo fare salti mortali per collegarci, ma nonostante questo, nonostante il fatto che negli uffici pubblici lo contingentino, perché sanno che gli impiegati in realtà hanno questa via di fuga domestica e professionale. Infatti, avendo un computer sempre aperto per lavorare, esiste questa fessura in cui la macchina di schiavitù professionale diventa la macchina di grande fuga, e da noi le fughe fanno molta paura. Ci avete fregato il sito! Dicono che abbiamo rubato Facebook e che... Lo so cosa dicono. Ed è vero. Un milione di dollari non conta. Sai cosa conta? Un miliardo. Non reggerà il passo. Sta crescendo molto più in fretta di quanto potessimo immaginare. Portiamolo davanti a una corte federale. Non vedo l'ora di guardarti mentre ci firmi un assegno. Se foste gli inventori di Facebook, avreste inventato Facebook. C'è qualcosa che dovresti dire. Potresti aver distrutto tutto quello a cui ho lavorato. Abbiamo lavorato. Ti piaceva fare lo zimbello? Vuoi tornare ad esserlo? Mark! È il nostro momento! Sentite, è in corso l'epica storicizzazione di Facebook, come una realtà che ha i suoi miti, ha la sua epopea, ha i suoi padri fondatori. Questo è Social Network, il film proprio prodotto quest'anno da David Fincher, che racconta appunto la saga Zuckerberg, il creatore di Facebook, le storie, i processi. È giovane, un ragazzino, non so se abbia 40 anni o se arriva a avere 40 anni, però già in questo momento è il cuore palpitante dello strumento di relazione più frequentato e più usato. Da quando a casa mia abbiamo il Facebook, sia io che mia moglie, io trovo i messaggini di mia moglie tipo stendi i panni, vai a fare la spesa, eccetera, eccetera, nei messaggi privati che ci scambiamo tra di noi. Avevo detto che mi sarei iscritta a Facebook per venirti a trovare e non ci sono riuscita perché il mio tempo davanti al computer chiaramente mi si è bruciato il sugo e i bambini mi hanno fatto una bella ramanzina perché dicono che perdo tempo davanti al computer invece di pensare alla cena. Facebook offre l'illusione di migliorare la vita reale. Vedo profili di persone che conosco molto bene, che hanno una vita reale veramente molto piatta. Non so, sul Facebook rinascono, assumono comportamenti che nel quotidiano non azzarderebbero mai. 800 24 0024, cominciate a chiamare voi che vi collegate con Facebook, voi che seguite Melog e allo stesso tempo state lavorando davanti a un computer, magari lo state sentendo con le cuffiette e via streaming live dal sito di Radio 24 o state sentendo con la radio a casa e avete comunque un computer accendibile nella stanza dei ragazzi, nel vostro ufficetto, nel tinello, nella tavernetta, ovunque sia. Ditemi, dopo anni dalla notte della passione, da quella sorta di divertimento pionieristico, dividemmo il paese in altane della passione. In ogni città d'Italia c'era un manipolo di eroi legati a Radio 24 e Melog che di notte si univano clandestini come se fossero dei guerriglieri pronti alla grande sommossa. E poi ci fu il grande pieno, ci fu qui alla sede milanese di Radio 24 via Monterosa, la notte in cui tutti vennero con la rossa maglietta della passione. Fu un grande, una specie di flash mob, di riunione spontanea di persone, però attraverso una contaminazione di mezzi di comunicazione molto interessante. La radio alimentava questa area clandestina che si muoveva in rete e l'area della rete trovava dei punti di sintonia perfetti con la radio. C'era lo stesso senso di appartenenza a una sorta di classe di persone curiose, con un occhio sulla realtà anticonformista, ma allo stesso tempo senza nessuna velleità di cambiare il mondo, di cambiare la realtà, cambiare soltanto il proprio tedio quotidiano. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno a tutti, sono Gianluca. Andrea, che è un amico, che è uno dei pionieri precursori di questo rapporto fra radio e rete, spesso ci siamo sentiti, ci siamo conosciuti anche noi nell'epoca in cui Melog era la trasmissione che si calava nella realtà di Second Life. Poi con Andrea abbiamo cominciato ad analizzare anche Facebook, spesse volte l'abbiamo sentito, è docente di filosofia del diritto e informatica giuridica all'Università Milano Bicocca. Andrea, tu hai dato un'occhiata a questi dati, sei dato qualche risposta sull'affezione degli italiani, analogici visceralmente, nel loro DNA sono analogici, però improvvisamente sono diventati dei grandi frequentatori di Facebook. Ma la cosa in realtà non mi stupisce, perché quando analizzammo i dati proprio all'inizio, no, il 2008 fu l'anno in cui Facebook esplose in Italia, in pratica, la cosa interessante di questa esplosione è che non fu un'esplosione che partì dalle grandi città ma dalle piccole città, perché Facebook almeno all'inizio ha favorito, o meglio è stata una rete che si è innestata sulla rete sociale che le persone già avevano nella quotidianità. Cioè, le prime persone che ho avuto amiche in Facebook sono i miei amici, le persone che frequento anche quando passeggio per strada o il sabato sera quando esco. Dicevo, infatti era l'allargamento del proprio strapaese, esatto. Tutti quelli del paese, tutti si vedevano su Facebook, si organizzavano il pomeriggio, la serata, esatto. Seguivano le transumanze sentimentali, erotico, amicali degli amici, degli ex fidanzati, dei mariti, delle mogli, a questo serviva. All'inizio c'era anche l'illusione, no, che si sarebbero potuti riagganciare a rapporti persi da decenni, insomma. Ma penso che sarà l'1%. Esatto, questo in realtà non è vero, insomma. Non è mai successo. Non è successo assolutamente, ma si sono sicuramente... A me mi ha cercato una vecchia perché è la mia età, compagna di università che non sentivo da almeno 30 anni, l'ho ribeccata su Facebook, lei mi ha cercato. Beh, l'unico caso, un caso limitatissimo. Sì, no, ma queste cose capitano, insomma, poi in realtà quello che ci si accorge è che quello che vengono risaldati sono i rapporti, le relazioni che si hanno già sempre. È una maniera diversa per comunicare, per mettersi d'accordo in molti casi, o per far sapere agli altri cosa si pensa. Molti miei amici, ma io stesso uso Facebook come uno strumento in qualche modo per avere selezionate le notizie che mi possono interessare, no? Ovviamente nella rete dei miei amici, con i miei amici condivido gli argomenti e degli interessi, e quindi i link che mi vengono segnalati su Facebook sono probabilmente link che interessano anche me. Ed effettivamente Facebook, secondo me, in questo periodo ha anche questa funzione di selettore delle notizie. Nel mare magno dell'informazione che ci colpisce quotidianamente, i nostri amici ci aiutano in qualche modo a fare un po' di ordine, a orientare la nostra attenzione. Infatti Andrea Marco, proprio su, in questo momento, sul mio profilo Facebook, mi corregge, dice Zuckerberg ha 26 anni, non 40. Sì, è giovanissimo, infatti ha meno di 30 anni. Sì, sembra assurdo, perché mi sembrano 10 anni fa che si comincia a usare Facebook, in realtà sono soltanto 2 anni. Io ho scaricato, non so se molti non sanno forse, che da qualche giorno è possibile da Facebook scaricare e fare il download di tutto quello che si è messo su Facebook. Io, per prepararmi all'incontro di oggi, ho scaricato tutto per vedere quando ho iniziato a usare Facebook. Già è possibile? Sì, sì, è possibile. Se andate nell'App Center lo trovate e scaricate tutto, le foto, tutti i messaggi che avete lasciato. Il mio primo messaggio è del novembre del 2007, ma a me sembra di avere Facebook da sempre, invece che ha solamente 3 anni. Infatti ho l'idea che sono 10 anni che lo usiamo, in realtà sono 2 anni, 3 anni. Tre anni. Erano i tempi ancora che si diceva... MySpace è figo, Facebook lo usano i vecchi. Mi ricordo questa frase, cioè, Facebook lo usano... Ma chi lo usa invece Facebook, secondo i dati, in Italia specialmente? Allora, i dati, abbiamo tolto le statistiche interessanti, hanno incrociato appunto gli utenti di Facebook con le statistiche Istat. In realtà è abbastanza, diciamo, allora, tolte le fasce estreme in qualche modo, insomma, è abbastanza ben distribuita. Ovviamente più si cresce con l'età e meno sono gli utenti, però confrontandolo ad altri strumenti, ad esempio la fascia che va dai 36 ai 45 anni ricopre il 23% degli utenti italiani, secondo questi dati, che in realtà è moltissimo. È chiaro che in qualche modo negli ultimi anni la maggior parte degli utenti sono i giovani che hanno meno di 25 anni, perché sono davvero la stragrande maggioranza, però per uno strumento nuovo, una nuova tecnologia del web 2.0, come si dice, coinvolgere oltre il 23% delle persone intorno ai 40 anni è davvero un successo incredibile. MySpace, ma anche altri social network, non hanno assolutamente percentuali di questo genere, insomma. Twitter, che per un po' hanno cercato di lanciare, in realtà in Italia è un fenomeno veramente di nicchia, no? Sì, è molto cyberfighetto, sì. Lo usano dei VIP per comunicare al mondo che ogni tanto hanno dei pensieri alti. Ha poco più di 1 milione di utenti italiani. Attualmente, alla statistica del 30 settembre, in Italia ci sono 16 milioni di utenti di Facebook, invece, che sono effettivamente una cifra enorme, calcolando che in media gli italiani che usano internet, diciamo non quotidianamente, ma usano internet, insomma, almeno una volta a settimana, sono 20 milioni. Quindi ha superato il digital divide, la voglia, la smania, il desiderio di fuga domestica, di intrallazzo, anche perché, diciamo la verità, l'uso che fanno gli italiani di Facebook è ben definito, è ben definibile. Anzi, noi abbiamo tracciato alcune tipologie di italiano in Facebook e vorrei intanto farvene sentire 3. Abbiamo fatto 3 profili maschili e 3 profili femminili. Sentiamo, secondo la nostra banalissima esperienza, in realtà chi sono gli italiani che vanno su Facebook. Tipologie maschili su Facebook. Lo spacciatore di immensità. Foto rigorosamente in bianco e nero, riga di status copiata e incollata da frammenti di testi di alta letteratura o poesia, ovviamente mai letti, ricercati su Google. Il militante. Immagine elaborata come il manifesto di Obama, o tutto nero, rosso, bianco, viola, a seconda del momento. Segnala video di politici da cui dissente e cerca indignati. Il Provola, detto SWL, Serial Web Lover, va a caccia della donna digitalmente disagiata, mette foto solo in primo piano con tagli significativi su occhiali scuri, dal vero è spesso impresentabile. Giampiero da Pavia, buongiorno. Io in realtà non appartengo a nessuna delle 3 categorie. No, non fare il furbo. Sono 3, non ce ne sono di più. Quali appartengono? No, scusa. Allora, io non ho Facebook, non lo uso. Ah, non sei un astensionista? Sono un astensionista volontario, probabilmente anche esagerato. E perché ti perdi questa cosa? Perché è stata una scelta un po' esagerata in seguito ad un contatto che ho avuto con una persona, parlando di un amico comune. Io ho detto che ero appunto uno dei migliori amici di questa persona. Il giorno dopo rivedo questa ragazza e mi dice: ma io ho controllato, tu non ci sei nelle foto e negli amici di questa persona su Facebook. Quindi metteva in dubbio il reale rapporto che io nella vita potessi avere con questo mio amico. E questo perché ti ha tanto scosso? Mi ha scosso perché ho cominciato a capire che forse Facebook non diventava più un'aggiunta alla vita sociale reale, ma diventava una sostituzione della vita sociale reale anche nelle persone normali. Ma secondo me, guarda, una lettura ormai un pochino datata, non è che sostituisce la vita, è che oggi la vita sociale è anche quello. Oggi noi abbiamo una possibilità di espanderci attraverso un multitasking relazionale, emozionale, mentre una volta frequentavamo 10 persone, 50 nella vita e 10 contemporaneamente nel corso di un anno. Oggi ne abbiamo anche 5.000, 3.000, 4.000, non è che li vediamo tutti, fanno una sorta di sottofondo emotivo alla nostra esistenza. Basta che una volta ci mandano un messaggio, ci commentano una foto, ci danno il loro pensiero. Io non mi sentirei di dire questo è un pericoloso passo indietro. Salvatore da Salerno. Sì, buongiorno, salve. Allora, a quale categoria appartiene? Spacciatore di immensità, militante o provola? Sincero. Guarda, non saprei come definirmi, però come dicevo alla centralinista che mi ha risposto, io sono professionista e diciamo sono stato alla larga fino a pochissimo tempo fa. Da Facebook avevo addirittura un profilo falso, giusto per poter controllare ogni tanto, insomma, se qualche vecchio amico potesse sì, i fatti online di sua moglie o della sua fidanzata, in realtà, dica la verità. Sì, in effetti anche lei, diciamo, lo so, è un terribile strumento di controllo. Esatto. Però voglio dire, io ho un'allergia di base a Facebook, perché comunque non mi piace il fatto che si mettano online tutte le proprie, i propri spostamenti, tutte le proprie emozioni. Io penso che sto per pubblicare la foto del taxi disastrato di questa mattina, quindi ormai diventa un desiderio di trasferire a tempo reale alla propria rete di relazioni in rete quello che noi ci accade, e si spera che gli altri lo facciano, di modo che è come vivere tante vite sovrapposte una all'altra. Poi adesso mi diranno che sono pazzo. Alessandro da Roma, poi chiudiamo il giro e diamo la linea. Ciao a tutti, io 2 anni fa ho partecipato alla Notte della Passione, sono partito da Roma con mia sorella, siamo venuti su. Non so mi ricordo perfettamente, sì. E cosa sei te in questo momento? No, io militante, sinceramente. Militante questo... sei, c'ha la foto anche te rossa e blu come quella di Obama? No. Pubblichi tutti i video di Santoro, queste cose qua? No, mi piace comunque rendere partecipi gli altri dei miei pensieri, poi se non gli piace non lo guardano, se gli piace commentano, poi finisce lì. Militante, allora è un uso etico e non razzolatorio per fini tricologici di Facebook. Gianluca, però segui troppo le persone, perché io mi ricordo quando all'epoca mi ero tra i tuoi amici, ma non ci sto più. Non ti ho segato, sei pazzo. Sono pazzo. Ah no, sarai in corso nelle decimazioni, adesso ti rimetto dentro. Dunque io ogni tanto, siccome più di 5.000 non posso averne, devo usare un principio molto crudele. Faccio le decimali, ogni 10 ne levo uno e ne levo sempre 200-300 per volta. Ti ero segato, ti rimetto dentro adesso, così almeno stai tranquillo. 800240024, oggi parliamo di Facebook. Sentite, è come essere nuovamente in famiglia. A tra un istante dopo le informazioni dalla borsa. Quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Devo inventarmi qualcosa di grosso per farmi notare dai circoli studenteschi. Perché? Perché sono esclusivi, divertenti e ti cambiano la vita in meglio. La gente vuole andare su internet per sapere cosa fanno gli amici. Serve un sito web che glielo permetta. Amici, foto, profili. Voglio prendere la vita sociale dell'università e metterla online. Il sito ha avuto 2.200 contatti in 2 ore. Di più, ne ha avuti 22.000. Questa idea potrebbe valere milioni di dollari. Milioni? 800240024, stiamo parlando di Facebook, della nostra esperienza, l'esperienza del nostro pubblico. Abbiamo un pubblico radiofonico, Radio 24, molto collegato alla rete, molto propenso alle contaminazioni. Stiamo sentendo il trailer del film Social Network, che parla dell'epopea di Facebook e del suo fondatore. Oddio, io il film non l'ho visto, soltanto sentendo l'audio mi sembra che si basi un po' su un immaginario un po' vecchio, sembra di sentire la vita di Don Bosco nei filmatini che ci facevano vedere i salesiani ai tempi del ginnasio. È un po' apologetico e non mi sembra molto corrispondente a quello che deve essere lo splendore, la vivacità e la novità del mezzo. Come lo usiamo noi? Cosa abbiamo fatto noi con Facebook? Abbiamo creato una comunità legata alla radio, di persone che hanno le loro vite. Individualmente che ho fatto? Ho conosciuto tantissime persone. Molti degli amici con cui faccio progetti, con cui lavoro, con cui passo il mio tempo, sono persone conosciute su Facebook. Ho conosciuto anche affascinanti amiche, intelligentissime persone e anche detestabili persone. Tipologie femminili su Facebook. La signorina Silvani riesce a simulare procacità allettanti con foto d'antan o particolari. di scarpe con tacco, porzioni di abbronzatura, occhi bistrati. Cerca diversivi al tedio impiegatizio. La fugace domestica. Profilo imbandito con foto di lei mamma e angelo del focolare, solo per buttar fumo negli occhi. Sa bene come ci si organizza la fuga fingendo che sia colpa del destino. La depressa deprimente. Solo foto che denunciano la sua assenza. Tramonti, gattini sperduti, scrivania piena di libri. Scrive frasi di status terminale da scongiuro. Vorrebbe essere amata. Queste sono, secondo la mia personalissima, individuale, perfettibile esperienza, le tipologie femminili. Quelle maschili le avete sentite prima. Corrispondono perfettamente a tutte le persone che ho visto, conosciuto, sbirciato, osservato e fuggito da Facebook. Noto questa mattina però una cosa molto singolare. Le donne che sono tanto spudorate, che sono tanto intelligenti, tanto brave, tanto capaci di criticare, tanto brave a metterci con le spalle al muro nella loro intraprendenza e nella nostra infingardaggine maschile in rete, quando mostrano le loro foto al mare, le foto dei loro bambini per farsi compiangere, ma in realtà per nascondersi dietro quei volti innocenti, e quando motteggiano le loro fughe domestiche, e quando si mostrano con il bicchiere in mano facendo vedere che sono alticce, mostrando che sarebbero pronte, disponibili, sono tanto brave. Questa mattina sono scomparse, non c'è una donna che telefona, soltanto uomini, come Vincenzo da Milano. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sei il vecchio Provola, tipico. Allora, io ho 23 anni, quindi... No, mica se non lo fai te la tua età, chi lo fa? No, lo so, però ho Facebook più o meno dal 2007, adesso più di lì non ricordo esattamente la data. No, prima non c'era proprio in Italia, erano tre persone. Quindi, però, vabbè. Cioè non socializzavi con nessuno, erate te e qualche ingegnere. E i miei colleghi, i miei amici, tutti quelli degli anni Ottanta, diciamo, quelli più giovani. Perché poi, cioè quelli nati negli anni Ottanta, vuoi dire? Quelli nati negli anni Ottanta, certo. No, io, perché la mia generazione sono quelli che negli anni Ottanta già erano al secondo lavoro. Esattamente. No, e anche sono, penso che la seconda generazione sia quella che si è poi iscritta a Facebook in questo ultimo anno e mezzo. Tipo, vabbè, quanto è razzolato? Lascia perdere la teoria. Allora, andiamo all'atto pratico. È stato un periodo, circa di un paio d'anni, in cui su Facebook io facevo del turismo sessuale. Vabbè. Cioè nel senso che... Saranno adulte consenzienti, non c'è niente di male. Esatto. Io contattavo le persone... Allora, donne sposate o donne nubili? No, beh, si parla di ragazze. Ah, ragazzine. Fidanzate o ragazze single. E come funzionava? Vi davate un appuntamento al buio, vi vedevate? No, beh, niente. Chiaramente ci contattavamo, magari amici di amici o amici di amici di amici. Ovviamente le foto che postavo prima su Facebook erano... Io perfetto. Io graziosi fotomontaggi ritoccati con Photoshop. A volte anche in bianco e nero. Certo, anche io metto sempre foto in bianco e nero. Soltanto gli occhi, soltanto il naso, soltanto una mano. La mano funziona sempre. Abbiamo i piercing, quindi. I piercing. Che piacciono tanto. E poi come millantavi la differenza, lo sfasamento fisico fra la foto e la realtà? Vabbè, non c'era uno sfasamento fisico così. Ah, cioè vuol dire che sei figo anche nella realtà? Figo no, però apprezzabile, cioè nel senso la gente quando mi guarda... Ecco, allora un apprezzabile, perché uno pensa, chi ricorre a questi mezzucci, dicono le vestali del perbenismo relazionale, è perché deve nascondere qualcosa. Io penso che in realtà le persone che normalmente anche nella vita avrebbero tante relazioni, hanno un acceleratore e un semplificatore, saltano tutti i tempi morti inutili in una relazione attraverso il social network. Sì, certo, però c'è da dire questo, che senza Facebook... E prima 2.0, forse voi non lo conoscete perché siete un po' grandi, sì. È un acceleratore, nel senso che... Ma cos'è che non conoscerei io, scusa? Cos'è che non 2.0 era un social network utilizzato dai ragazzi prima del 2007. Sì. E veniva utilizzato prevalentemente da ragazzi milanesi, appunto per parlare, chiacchierare, si postavano foto, ma era molto più semplice rispetto a Facebook. Venne creato nel 2003 più o meno, una roba del genere. Sì, ma la forza di Facebook è la globalità, è che ormai ci sono tutti. Prima vedi, hai detto i ragazzi milanesi, diceva il professor Rossetti, quelli di un paese. Adesso ci sono tutti, non ti sbagli. Io l'altro giorno, ieri, entrando in metropolitana, mi ferma un signore di cui non posso dare le generalità, mi dice: io sono uno dei mille di Melog, e mi dà il suo biglietto a vista, era un iper top manager, amministratore delegato di una grande multinazionale, e sono rimasto di stucco pensare che mi abbia visto e ci eravamo sentiti su Facebook. Questa mattina mi ha riscritto, mi ha ridato i suoi dati. Andrea Rossetti, Sei ancora in linea? Ecco Andrea, andiamo avanti nell'analizzare, noi stiamo saltabeccando fra quelli che sono gli ascoltatori e vedo che il fatto che stiamo telefonando adesso tantissime persone dimostra che rispetto a qualche anno fa non andiamo più a toccare una punta ancora sepolta di avanguardismo relazionale, oggi andiamo nel ventre molle di quello che ormai hanno tutti. Sì, certo, ma per ritornare alla distinzione di genere che facevi prima, in realtà Facebook è uno dei pochi strumenti in internet in cui uomini e donne nel complesso, cioè viene usato da uomini e donne nel complesso nello stesso numero, insomma, non ci sono molti più uomini rispetto alle donne che usano Facebook. Ed è un dato interessante perché in realtà, mentre sempre per quello che riguarda la popolazione italiana, internet, i maschi usano internet il doppio rispetto alle ragazze, rispetto alle donne. Invece Facebook ha superato un altro digital divide in qualche maniera, no? Ha fatto in modo che questo strumento fosse utilizzato sia da ragazzi che da ragazze nella stessa maniera. Si nota una differenza unicamente da quelli della mia età in su, insomma, da quelli oltre 40, lì effettivamente il genere conta ancora, nel senso che i maschi sono molto di più delle donne che usano questo strumento, ma al di sotto, addirittura al di sotto di 20 anni, ci sono più italiane iscritte a Facebook che non italiani, e anche questo mi sembra un dato interessante nel nostro panorama almeno. Consuelo da Vicenza. Pronto? Eccomi Consuelo. Sì, buongiorno Nicoletti. La mia esperienza è piuttosto anomala rispetto a quella credo comune. Mi sono iscritta a Facebook ad aprile dell'anno scorso, nel 2009, solo perché volevo vedere le foto del matrimonio di un'amica. Poi sono partita per una vacanza quando sono rientrata ho trovato una trentina di richieste di amicizia dei miei ex compagni di liceo di Istanbul. Ho omesso di fare una piccola premessa: io sono nata in Pakistan, ho vissuto lì 10 anni e ho fatto i primi anni di liceo in Turchia. Qui hai trovato i tuoi amici turchi che pensavi che mai più avresti visto? Mai più. Ho pianto tutte le mie lacrime quando, a distanza di qualche mese, mi è arrivata la richiesta di amicizia da parte del mio maestro delle elementari, che credevo di aver perduto. Quindi tu hai un uso ancora tradizionale legato all'iconografia tradizionale di Facebook, i vecchi amici. E poi cosa avete fatto? Cose turche o continuate a contattarvi? Nessuna cose turche, no. Vabbè. Ogni tanto ci chiediamo come stiamo. L'ultima volta che mi ha scritto una mia amica turca mi ha ricordato che in Turchia gli interventi di chirurgia estetica costano molto meno che in Italia. E quindi fai un saltino... No, non ho 36 anni e non credo di averne ancora bisogno. Va bene, in bocca al lupo, brava, avrai delle foto bellissime e per questo i tuoi amici turchi continuano a tampinarti in rete. Giulia da Milano. Buongiorno. Tu invece sei un caso atipico. Io sono un caso atipico. Quanti anni hai? 20. 20 anni? 20 anni e non ho Facebook. Sì, ma tu hai come quelle dichiarazioni di castità che fanno, dico io rimango casta fino al matrimonio. No, guardi, infatti io non disprezzo Facebook, non è che appunto... Ma come fai a vivere senza un social network? Ma perché effettivamente io non ne sento proprio particolarmente il bisogno, però mi rendo conto che è una cosa veramente strana, perché comunque una volta si disprezzava l'idea del cellulare, che tutti avevano il cellulare e chi non ce l'aveva era un po' messo da parte. Sì, i burini ce l'avevano alla cintura, ma oggi ce l'hanno tutti, è passata la fase della quattaggine di Facebook, oggi sono coatti e non coatti, anzi l'astensionista con la puzza sotto al naso ormai appartiene a una sorta di retroguardia radical chic, quelli che dicono io non c'ho la televisione. Sì, esatto, no, ma sì, io rendo conto. Ma sei giovane, già vuoi congelarti in questa terribile condanna esistenziale? Ma io non punto il dito contro quelli che hanno Facebook, difendendo chissà quale moralità o cose del genere. Mi rendo conto che, ad esempio, per quanto riguarda la pubblicità è importantissimo Facebook, ad esempio una pubblicità per un locale oppure di un gruppo, eccetera. Quindi comunque per la commercializzazione è importantissimo. Ma sai cosa dico? Io, per esempio, per me è un ufficio stampa autonomo efficientissimo. Devo presentare un libro, la sollevazione di Bracciano. In 2 minuti comunichi a 7.000 persone che quel giorno sarai lì. Esatto. Glielo fai sapere. Un ufficio stampa può fare 100 telefonate, 200 telefonate, mandare delle mail a 50, 100 persone, ma su Facebook metti le foto, metti a tempo reale l'evento mentre sta accadendo. In questo è un grande strumento per comunicare. Devo dare la linea a questo punto alle informazioni per il traffico, mi dicono, quindi diamo la linea al traffico e riprendiamo tra un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Mi sto divertendo a guardare i messaggi sui vari profili delle persone che scrivono, le riassumo brevemente. Molti accusano il fatto dell'identità multiple. L'identità multipla, che è uno strumento tipico del tacchinaggio in rete, devo dire che sarebbe antitetica, perché Facebook funziona in quanto uno mostra la sua vita, vita allucinata, vita ipervalutata, vita taroccata, quanto volete. Ma uno, anche se mette le foto di 30 anni prima al mare, o mette quei bei profili in bianco e nero in controluce che non si vede nulla, si immagina tutto, o nasconde le vene varicose, nasconde la pancia, nasconde l'obesità, nasconde l'arida secchezza, mette soltanto magari il polpastrello, il dito mignolo, perché è la cosa migliore che ha. Tanto mette qualcosa di sé, dà informazioni reali della sua vita. Mettere identità finte nasconde l'intento di volere guardare gli altri, perché oltre a uno strumento di relazione è uno strumento di spionaggio. Quante persone, e oggi Facebook ce lo dimostra, stanno ore e ore sui profili delle persone a loro interessanti, guardano il marito, guardano il fidanzato, guardano l'ex, guardano l'amante abbandonato, guardano l'amante che vorrebbero ghermire, carpire, perché è una maniera per conoscere a tempo reale quelli che sono i flussi, i moti e le transumanze di una persona. Altri naturalmente continuano a insistere a fare le classificazioni, a mostrare sottogeneri, ma vi assicuro che i sei che ho definito sono i filoni principali delle caratteristiche maschili e femminili su Facebook, che rispondono a due esigenze primarie. Ci sono quelli che nascondono e quindi fanno finta di stare lì perché è utile, perché fanno testimonianza, perché si appassionano ai gattini abbandonati, perché protestano contro Berlusconi, contro chiunque, sempre le solite cose alla fine, queste cose qua. E quelli che palesemente stanno lì per fare mostre di se stessi. Ma entrambi gli atteggiamenti sono leciti, perché è un mondo in cui ognuno può fare quello che vuole. Raffaella da Bergamo. Buongiorno, complimenti innanzitutto, veramente. Tre profili hai, Raffaella. Sì, esatto, ma ho riscontrato una mancanza, diciamo, nei profili femminili che sono stati indicati su Facebook. Quale manca? Secondo me manca quello delle trentenni, 35enni, donne che pubblicano le fotografie del proprio matrimonio. Sì, tantissime, c'ha ragione, tantissime. Ce ne sono veramente molte. Sì, ma sono quelle che poi mostrano i figli, diciamo, due anni dopo mostrano i figli. Esatto, esattamente. Mostrare il matrimonio è come dire, guarda, apparentemente sono sposa, fedele e tutto, però fai l'occhiolino, perché è una grande sicurezza per il taccheggiatore a vedere una che è già impegnata, dice questa, vado tranquillo, non si innamora, non mi si appiccica, non mi crea casino. 31enne, dunque già da qualche anno, diciamo. Tu l'hai messa le foto del matrimonio? Io convivo, non sono sposata, e quindi zitella possiamo dire, 31 anni. E invece ecco, da donna io la vedo in un altro modo, non tanto come la donna sposata che fa l'occhiolino, quindi si rende in qualche modo disponibile senza impegno. Guarda, ma è meraviglioso vedere la civetteria impiegatizia di queste signore che dicono e non dicono, fanno oggi sono depressa, oggi il cielo è grigio, oggi vedo degli uccelli che incombono su di me in maniera inquietante, capito? E ci leggi dei sottotitoli. Temi terrificanti. Sì, certo, e dall'altra parte invece si appare come diciamo perfettamente in linea. Ma tu cosa ci fai? Qualcosa è razzolato anche te, dai, lo sento dalla voce. Io non sono iscritta a Facebook, ma per un... E c'hai tre profili, c'hai? No, non ho i profili, li vedo, nel senso che lo sbircio. Diciamo, e come fai a entrarci se non c'è il profilo? Dai, dal profilo del mio ragazzo. Sì, fate le passeggiatine, mano nella mano in Facebook, dai. Non vuoi rivelare che anche tu ce l'hai? Ecco. No, vi dico nome e cognome. No, guai. Se volete, non ho Facebook, ma perché avendo combinato delle marachelle, piccole marachelle sentimentali. T'hanno sgamato subito. Io non voglio essere trovata, ecco. Sì, però, guarda. La persona di cui mi sono liberata. Sei tutt'altro che perspicace, perché lo stai dicendo alla radio. Quindi c'è qualche milione di persone che ti ha sentito su Facebook, magari potrei nasconderti, quindi avrai la terrificante e ingiusta punizione per il tuo errabondo sentimentale e sensuale, però non hai che il mio plauso. Carlo da Roma. Carlo? Sì, mi senti? Datti una tipologia anche te. No, io purtroppo non ho più la tipologia in quanto non sono più iscritto. No, ti sei autosegato, come mai? No, ti spiego un paio di esperienze che ho avuto. Due anni fa circa dovevamo fare un meeting internazionale con delle colleghe. Loro ci hanno chiesto di inserirsi in Facebook perché così potevamo scambiarci conoscenze prima. Fa tutto quanto. Prima di così cominciamo. Prima di fare questo meeting. Certo, loro devono farsi la scaletta, diciamo, questo certo, sì, questo no, certo. Crocettina, 2, 3, 4, 5 punteggi e via dicendo. Certo. Io insieme ad altri colleghi ci siamo iscritti, abbiamo preso le amicizie di queste qua e a vederle erano delle bellissime colleghe. Certo. Poi ovviamente quando è stato un meeting ci siamo accorti che probabilmente le foto erano di 30-40 anni fa. Saranno organizzate le signore, non ci trovo nulla di male. Sì, erano organizzate. Seconda esperienza, la mia ex compagna ha conosciuto Facebook anche più o meno 2 anni fa e ultimamente passava praticamente quasi tutte le volte a pubblicare su Facebook. Anche ci siamo praticamente lasciati. C'è il vecchio proverbio toscano, cito ogni tanto: chi porta la sua moglie ogni festa e fa bere la mula ogni fontana, incapolando la mula e bolsa, e la moglie chiaramente. Perfetto. Tutto qua, insomma. Vabbè, in bocca al lupo, Claudio, provincia di Milano. Ciao. Claudio da Milano. Buongiorno Gianluca. Io praticamente nel 2007 mi sono iscritto a Facebook pensando che fosse una buonissima opportunità. Di lavoro. Dal punto di vista di lavoro, certo, esatto, tutti perché pensavo fatto. Di ampliare certo. I contatti, c'erano tutti i miei colleghi che scrivevano, ho pubblicato. Sto lavorando, ogni volta ti dico cosa fai davanti da 2 ore, sto lavorando. Esatto. Certo. E poi invece? E poi invece, vabbè, ciò non è avvenuto, praticamente non ho avuto nessun tipo di, certo. di riscontro positivo. Ho avuto invece un sacco di richieste di amicizia da parte di... persone che avevo perso di vista da tantissimo tempo. E quindi sei felice? No, quindi mi sono tolto, insomma, probabilmente il momento giusto. Se non ci sono soldi, se non c'è companatico, che ci si perde tempo a fare, è vero. Andrea esatto. Rossetti, facciamo una conclusione, velocemente. Abbiamo un po' scherzato, però di fronte alle vergini vestali che dicono sempre questo non è internet, questo non è aver superato il digital divide, internet è... qualcosa di più strutturato e solido, come ad esempio la blogosfera. Facebook viene considerato come una sorta di strumento pop, come se la rete non potesse essere pop, dovesse essere elitaria. Sì, non si capisce innanzitutto che la rete, anzi, dovrebbe essere il contrario di elitaria. No, io direi che in realtà Facebook ha proprio sdoganato internet in Italia. Insomma, è un dato di fatto che dopo la diffusione di internet, si parla del 2008, ci sono state molte persone che hanno fatto l'abbonamento a DSL alla rete, cioè l'abbonamento a DSL, la possibilità di connettersi alla rete unicamente per utilizzare Facebook. Ovviamente avranno cominciato da quello, però avranno iniziato a utilizzare anche altri servizi, ma è stato veramente un grandissimo facilitatore della diffusione della rete in Italia. Tu pensi sono state campagne ministeriali, campagne di opinione pubblica, usate internet, insegniamo esatto. internet nelle scuole, il vecchio sano friccicare amoroso in realtà. In realtà, come sempre succede, ha dato agli italiani modo di superare la loro analogica diffidenza verso la rete. Grazie Andrea Rossetti, grazie ai nostri ascoltatori, a domani. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.